proprio liscia, non va così liscia per noi che chiediamo che ore. E c'è un'altra strada, e c'è un'altra luna, e un altro bar che chiude, e un'altra voglia di fortuna. Allora, bambina, c'è poco da dire se non che mi troverai qua. Cambiato per niente, ma neanche scontento, fottuto dal dovere, pensare di dover avere. Ma ci sarà un souvenir che ci riporterà solo certi momenti, e sarà un bel souvenir, una fotografia, una canzone fra i denti. Ma ci sarà un souvenir, ci commuoverà fino a farci contenti. Tieniti il tuo souvenir da mettere poi via ridicendoti avanti. Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo in cui dovremo dire adesso è giusto riposare. Ma ci sarà un souvenir che ci riporterà solo certi momenti, e sarà un bel souvenir, una fotografia, una canzone fra i denti. Un souvenir formato tir a 120 all'ora, arriva lì spazzando via qualsiasi altra cosa. Quasi tutti i colori, sarà un bel souvenir, sarà lo specchio di riflessi chiari e riflessi scuri. Sarà un bel souvenir, il nostro souvenir, sarà di quasi tutti i colori. Sarà un bel souvenir, sarà lo specchio di riflessi chiari e riflessi scuri.